Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti da Davide Paolini. Ebbene, oggi faremo un bellissimo itinerario. Io l'ho chiamato Basilicata Coast to Coast, al fortunato film di Rocco Papaleo. È evidente che il nostro Coast to Coast non sarà proprio così, perché andremo anche all'interno e parleremo sicuramente di cibo. Parleremo di formaggi, parleremo di fagioli, parleremo di peperoni, parleremo di ricette particolari. Insomma, cercheremo di scoprire questa splendida terra che è la Basilicata, ovvero la Lucania, da Lucanica, quindi da Lucania deriva Lucanica, quindi c'è già, diciamo, qualcosa di gastronomico già nel nome, anche perché non è così conosciuta, se ne parla troppo poco, e devo dire che anche dal punto di vista paesaggistico è veramente una terra veramente molto, molto fortunata da andare diciamo a visitare. E allora io comincerei questo viaggio. Anzi, dico, cari radioascoltatori, se volete intervenire, numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, perché se avete qualche chicca da raccontarci, perché no, questo aumenterebbe un po' così la conoscenza di questa terra. Allora io inizio questo viaggio da un personaggio che di formaggi veramente ne conosce aiosa, ma veramente un super esperto, e so che anche lui ama molto questa terra dal punto di vista dei formaggi, ed è Roberto Rubino, che è presidente dell'associazione Formaggi Sotto il Cielo, ma soprattutto è un grandissimo tecnico. Buongiorno Roberto. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Forse diciamo che nel resto, chiamiamolo così, dell'Italia i formaggi della Basilicata sono poco conosciuti, ma veramente sono straordinari. Raccontaci qualcosa, Roberto. Sì, in sostanza poi sono poco conosciuti, non direi ormai, il fagiolo pallavolo è diventato, credo, il re dei formaggi in senso assoluto, che non è solo lucano, chiaramente, ma insomma è venuta soprattutto da paesi come Calvello, Ferrandina, è avuto un po' la risposta di questo formaggio, ma soprattutto di questo allevamento. Cioè, per la prima volta in Italia si è dimostrato che la qualità si fa con i sistemi al pascolo, che vacche che fanno poco latte. Cioè, esattamente il contrario di quello che ci avevano raccontato fino a qualche decennio fa. Poi il canestrale di Moliterno, che è la storia della transumanza. Moliterno non ha mai prodotto formaggi, ma era il paese degli stagionatori. È uno dei pochi paesi dove sono bei palazzi. Quei palazzi erano il frutto del commercio dei formaggi, perché quando c'era la transumanza non ci potevano essere i locali di stagionatura. Quindi i commercianti andavano nel tavoliere pugliese, recuperavano i formaggi appena fatti, poi li salavano, e avevano questi palazzi e sotto i fondaci stupendi dove si affinavano i formaggi in maniera veramente stupenda. Ecco, io ti fermo perché poi ti richiamo e magari parliamo anche di Figliano e parliamo degli altri formaggi. E questo fatto che venivano stagionati è interessante, perché ricordo che in questo paese c'era anche una forma di stagionatura comunale, che il comune aveva messo a disposizione degli spazi proprio per portare a stagionare. Questo lo vedremo dopo, perché io ora voglio parlare di fagioli. Bene, c'è un paese famosissimo in Basilicata che si chiama Sarconi, e io voglio parlarne con Domenico Belisario. Buongiorno Belisario. Buongiorno Davide. Allora, come andiamo? Come andate? Come va la stagione dei fagioli? In questo momento stiamo, diciamo, zappettando, stiamo pulendo l'erba nei fagioli, perché i fagioli da noi maturano a metà settembre, che noi raccogliamo secco sulla pianta, quindi adesso siamo in una fase di coltivazione, di irrigazione. I campi stanno bene, diciamo che il tempo è andato bene fino adesso, e quindi diciamo a noi ci serve il caldo, non ci serve la pioggia e il freddo. Quindi, senta Belisario, ma gli ecotipi di Sarconi sono tanti, di fagioli? Sono 19 sul disciplinare, quindi diciamo, perché ci sono varietà tipo il Nasied, tipo la Tuvaglietta, che ce ne sono di vari colori. Ecco, quindi siete più ricchi sicuramente di... Io ne coltivo 30 varietà, quindi diciamo sono arrivato a fare una collezione di ecotipi unica forse al mondo. Bene, dopo mi dirà quando c'è la sagra. Un radioascoltatore, Vincenzo da Napoli. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno a lei. Mi dica. Volevo segnalare, io anni fa ho lavorato nella zona in Basilicata, per esattezza a Davigliano. Sì. Dove secondo me fanno il più buon baccalà con i peperoni cruschi. Ebbene, poi di peperoni cruschi parleremo. Grazie Vincenzo da Napoli per la segnalazione. Ricordo, numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Roberto, abbiamo parlato del pecorini, quindi anche i pecorini sono una grande ricchezza. Tu dicevi che si trovano, che si conoscono. Beh, io sono molto scettico. Ad esempio il pecorino di Figliano e gli altri pecorini a Milano non si trovano. Sì, non si trovano perché le protezioni sono quelle che sono, ma si conoscono, voglio dire, una cosa... Tu sei troppo ottimista. No, non sono prodotti di grande massa, per esempio Figliano è un'altra storia molto bella da raccontare, perché la zona di Figliano era dei principi d'Oria, quindi era la zona del latifondo che poi improvvisamente viene frammentata e spezzettata, e lì Figliano è il paese dei produttori di formaggi, mentre Moliterno è il paese degli stagionatori. Quindi Figliano c'era ancora la pecora gentile di Puglia, c'erano i pascoli, quindi grandi formaggi, piccoli produttori. Figliano si trova ancora meglio perché sono tutti piccoli produttori. Lì si viveva ancora con 90-100 pecore, cosa che può sembrare incredibile, però questa è l'economia di quella zona. Ecco, se la diffondi frammentati, dove c'è la pecora, c'è il pastore. Beh, io devo dire che questi posti, questi borghi, secondo me sono anche da andare a visitare, perché oltre che queste produzioni sono anche interessanti da vedere, poi magari da andare a cercare qualche trattoria e ne parleremo dopo. Ma voglio tornare a Belisario. Belisario, la sagra dei fagioli di Sarconi, diciamo che è abbastanza imponente e interessante. Quando c'è? Allora, noi quest'anno facciamo la 31esima sagra il 18 e il 19 agosto. Quindi fra poco. Quindi... Sì, manca poco. Siamo già in fase di organizzativa, diciamo. Quindi come si svolge? Si svolge nel centro storico di Sarcone, dove si mangiano i fagioli dall'antipasto al gelato, quindi si fa l'antipasto, si fanno due primi, si fanno due secondi, e poi si fa il dolce, poi si fa alla fine si mangia il gelato al fagiolo. Ecco, anche ecco, il gelato al fagiolo, quindi lì da voi c'è una gelateria che fa il gelato al fagiolo anche? Sì, c'è un gelato, diciamo, che si fa con i cannellini bianchi, e poi c'è una ricetta particolare che il gelataio c'è il suo segreto. Senta Belisario, qual è il piatto, diciamo, che il piatto tradizionale di Sarcone con i fagioli? Il piatto tradizionale di Sarcone è pane in busto con i fasuli, insomma, pane bagnato, cioè pane raffermo fatto in casa, si mette nel piatto e si ci buttano sopra i fagioli, olio extravergine e aglio crudo. Ecco, mi arriva ora un SMS di un paese che sinceramente conosco abbastanza bene, la Basilicata, ma io non conosco. Tursi, mi dicono, la Rabbatana, un paesaggio straordinario, piccolo paese che produce un prodotto strepitoso, l'arancia della qualità staccia, unica nel suo genere. Io questo proprio non lo sapevo. Rubino, tu che sei un intero... La Rabbatana è Tursi, la Rabbatana è il quartiere arabo di Tursi, e chiaramente a Tursi, dopo, soprattutto quando furono, ecco, con la riorganizzazione delle terre dopo la seconda guerra mondiale, era una vecchia tradizione, ma lì c'è l'arancia staccia di Tursi. Ma secondo me una cosa bellissima è il percoco di Alianello, Aliano, una cosa, io credo, formidabile. Cioè, non ho mai assaggiato un prodotto così unico come il percoco di quelle paste. Bene, io ringrazio Roberto Rubino, Domenico Belisario, con cui abbiamo iniziato questo viaggio nella Basilicata. Ricordo, numero verde 800 24 00 24. Continuate a mandarci questi messaggi, appunto, che scopriremo sempre di più questa terra. Bene, abbiamo parlato di prodotti, abbiamo parlato di fagioli di Sarconi, abbiamo parlato appunto di formaggi, di Moliterno, di Figliano. Continuiamo questo viaggio. Ora abbiamo uno chef molto importante della Basilicata, ma anche a livello nazionale ovviamente, però credo che sia della Basilicata sia uno dei maggiori esponenti. Quindi buongiorno a Frank Rizzuti, ora Cucina del Sud di Potenza. Come sta? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Abbiamo iniziato questa nuova esperienza e sembra tutto bene. Senta, lei l'ha chiamato appunto il suo locale Cucina del Sud. Ha voluto dare proprio, come posso dire, un'etichetta ben precisa. Diciamo, l'obiettivo è quello di rappresentare un po' i prodotti del sud, dato che la Basilicata è al centro tra la Campania, la Puglia e la Calabria, insomma, di usare i prodotti che sono sicuramente i nostri e si espandono, diciamo, anche verso il mare, o tutti i prodotti di qualità, perché la qualità poi non ha confini, insomma. Senta Rizzuti, lei diciamo prima era a Potenza in un altro ristorante, poi addirittura anche è consulente di un ristorante in Calabria, dove ovunque è andato ha avuto dei grandissimi riconoscimenti. Volevo chiederle, se rimaniamo alla Basilicata, dal punto di vista, se vogliamo, delle realtà gastronomiche, offre panieri di prodotti per fare una grande cucina? Sicuramente, cioè, la cucina della Basilicata è una cucina povera, fatta tradizionalmente da verdure, la pasta di semola fatta a mano, però dei prodotti che appunto avete, di cui avete già parlato prima, come i fagioli di Sarconi o il peperone di Senise, prodotti di grandissima eccellenza, di grandissima qualità, su cui veramente si può lavorare per renderli ancora più gourmet, diciamo. Quindi insomma ci sono le basi, io non direi di parlare di cucina chilometro zero, però sicuramente una cucina importante, rimanendo nell'ambito della regione, perché c'è anche un ottimo olio d'oliva extravergine, appunto ci sono i pomodori, quindi diciamo che c'è un background molto, molto interessante. Senta, se lei uno gli chiedesse di rappresentare la sua terra con un piatto. La mia terra con un piatto, si va dal... Sicuramente la pasta di casa, perché la pasta fatta a mano, diciamo, anche se si trova in altre regioni, però da noi è veramente proprio nella tradizione, anticamente si faceva solo la pasta fatta a mano, quindi direi gli strascinati magari con il baccalà e i peperoni crusti, ecco, per esempio. Perché si chiamano strascinati? Perché è una pasta che viene prima lavorata, fatta diciamo sulla spianatoia, e poi viene strascinata con le dita, quindi ci sta a due dita, a tre dita, e poi in base alle zone viene fatta più grande o più piccola. È una pasta che accoglie molto bene i sughi, tradizionalmente si fa con il sugo di carne della domenica, oppure con la mollica croccante, sempre dei piatti molto semplici, molto essenziali, molto poveri, fra virgolette, però di grandissima qualità di materie prime e grandissimi risultati. Bene, rimanga con noi, sentiamo Enrico da Milano. Buongiorno Enrico. Buongiorno Davide, io sono a Milano da 18 anni, ho un caseificio, faccio la mozzarella e promuovo i prodotti lucani a Milano, servendo anche gli alberghi. Senta Enrico, ma lei è lucano? Io sono lucano, sono di Lavello. Ah, benissimo, quindi ecco, dicevo prima, lei, il pecorino di Filiano quindi si trova da lei? Come no, anche quello di Forenza. Quello di Forenza, sì. Raccolgo tutti i prodotti lucani, ma non solo i formaggi, anche il fagiolo di Sarcone, le confetture di fagioli da un'azienda di Sarcone praticamente. Ma il formaggio di Forenza, quello della famosa signora Casara, importantissima, la signora Sumo. La signora Sumo. Va bene, perfetto. Allora vorrei ricordare ai radioascoltatori che questa signora stagiona un pecorino oltre 30 kg, cosa unica in Italia, e devo dire che lei è la vera Casara ed è un personaggio davvero straordinario. Sentiamo Antonio da Vibo Valentia. Buongiorno Antonio. Buongiorno. Senta, io sono calabrese, però bazzico in Basilicata oramai da oltre 20 anni. E sono un affezionato della Madonna del Pollino. Sì. Dove c'è questo raduno la prima domenica di luglio, dove si vivacchia per ben due giorni e due notti. Uno dei piatti tipici è la monacale, che è un facchisimile di ragù che si fa, che si cucina proprio all'aperto, che è di pecora e di grappa, che è buonissimo. Bene Antonio, speccato che questo raduno ci sia già stato. Bene, lo lanciamo per il prossimo anno. Ricordo il numero verde 800 24 00 24. Devo dire che arrivano tantissimi sms che parlano dei prodotti di questa terra, quindi è molto piacevole, perché forse chi è stato se le ricorda, poi ne leggerò alcuni molto interessanti. Ora andiamo in una diciamo azienda agricola interessante che si chiama Per Boschi e Contrade ed è diciamo una frazione di Sarconi in provincia di Potenza. Andiamo da Paola Scote. Buongiorno Paola. Buongiorno, buongiorno. Diciamo che da questa Per Boschi e Contrade è nato un prodotto che diciamo poi è stato abbastanza imitato ed è molto interessante, la marmellata di fagioli, vero? Sì, certo. Com'è nato? Ce lo vorrei ricordare ancora una volta, perché assieme l'abbiamo ricordato tante volte. Sì. Ma è nata un po', diciamo, così, per per realizzare un prodotto legato alla tradizione e legato a questo territorio, perché noi insomma abbiamo messo su un laboratorio artigianale a conduzione familiare dove trasformiamo la frutta in confetture, in marmellate, ed essendo qui a Sarconi, essendoci questo fagiolo IGP così rinomato e così buono, ci è venuto in mente di fare questa confettura realizzata col fagiolo. Ecco, voi fate altre confetture interessanti, ce ne vuol dare qualche spunto? Perché sì, ricordo che ci sono, certo, delle combinazioni interessanti, prego. Beh, facciamo tante qualità così di marmellate, di confetture, non so, facciamo carote arance, facciamo i pomodori verdi, facciamo le marmellate di cipolle, le marmellate di castagne con la castagna di Melfi, le arance, prendiamo quelle di Tursi, cerchiamo di lavorare sempre soltanto frutta lucana, perché poi insomma ci sono delle varietà molto interessanti, non so, il fico rosato di Pisticci, c'è l'uva sempre della zona di Policoro, le fragole, che è una qualità particolare. Bene, la cantonga. La fermo, Paola, perché lei ha dato una panoramica appunto dei tantissimi prodotti. Grazie Paola Scote per Boschi e Contrade di Sarconi. Io voglio chiedere a Frank Rizzuti, mi è arrivato un SMS, magari lui può rispondere, così raccontiamo anche i nostri radioascoltatori. La pasta è fatta in casa come i triciddi. Cosa sono, Frank? Triciddi non... Bene, si vede che questo radioascoltatore magari ha scritto... No, ma poi dipende dalle zone. Beh, certo, cambiano i nomi, certo. Diciamo, però presumo che siano dei cavatelli a tre dita, però non vorrei sbagliare. Ah, ho capito. Senta Frank, ci può dare una ricetta, diciamo, che lei ama in modo particolare? Veloce? Una ricetta che ami in modo particolare può essere l'acqua sala. L'acqua sala è un piatto povero fatto per il recupero del pane duro di semola che aveva all'epoca, si faceva in casa ogni 15-20 giorni, quindi tradizionalmente proprio si fa soffriggere la cipolla, si mette dell'acqua appunto con un po' di sale, si fa cuocere per 10 minuti, poi si mette sul pane e si fa ammorbidire, e già questo è molto gustoso. A questo si può aggiungere un uovo e noi ci mettiamo delle cime di rape. È un piatto che può sembrare essenziale, però se uno lo prova, secondo me rimane quasi stupefatto. Bene, la ringrazio Frank e le auguro con il suo nuovo locale grandi successi come ha ottenuto con gli altri, quindi lei tiene in alto la cucina lucana e spero appunto che abbia grande successo. A presto, la saluto, arrivederci. Buona giornata, arrivederci. Bene, sentiamo Maris dalla provincia di Modena. Buongiorno Maris. Buongiorno Davide, io telefonavo perché sono una donna 55enne di Casafranca Emilia, ho sposato a lucano da 32 anni, felicissima perché tutti gli anni ho avuto la possibilità, fino a quando i miei suoceri erano in vita fino a 3 anni fa, di conoscere le prelibatezze e la bontà di questa terra. Volevo però fare la pubblicità, anche pubblicità onore agli uomini e alle persone lucane, sono veramente eccezionali, di cuore, d'animo, e io mi sono sentita, nonostante appunto la mia terra è ricca di cibi, veramente a casa, sono bellissima gente. Bene, bene, un inno alla Lucania, un inno a suo marito, mi sembra di aver capito, se è in ascolto credo che sarà molto contento. Bene, arrivano moltissime appunto, dicevo, SMS che inneggiano ai prodotti e si parla di pane di Matera. Io non ne ho parlato perché sicuramente è un prodotto IGP, è tra l'altro conosciutissimo, un prodotto che ha pari fama, forse magari quelli di Altamura ora storceranno la bocca, però sicuramente è un prodotto pari fama, direi, al prodotto appunto del pane di Altamura, ma è molto conosciuto, quindi arriva a Milano, si trova in diversi posti, ma ci sono anche altri prodotti. Mi parlano del pezzente. Il pezzente è un salame povero, mi parlano del pezzente di Gorgoglione, quindi un'altra cosa, diciamo, da mettere, da scrivere, perché sono appunto quelle notizie interessanti per chi magari nelle prossime settimane passa le vacanze in Basilicata. Vorrei ricordare che la Basilicata ha un mare stupendo e anche delle montagne, perché ci sono montagne chiamate le Dolomite Lucane a 1200 metri, quindi sicuramente molto ma molto interessanti. Volevo ricordare un bar, mi segnalano il bar Castello di Varese, in provincia di Varese, dove c'è una colonia lucana che sono in ascolto e lì promuovono i prodotti appunto della loro terra. Bravissimi, bravissimi questi, questo gruppo di lucani, appunto ce ne sono moltissimi in giro per l'Italia. Bene, ora continuiamo e ora andiamo a Matera. Prima siamo andati a Potenza, ora andiamo a Matera, splendida città, la città appunto notissima dal punto di vista turistico, riconosciuta dall'UNESCO, e quindi sicuramente possiamo parlarne bene con Francesco Abbondanza. Buongiorno Abbondanza. Buongiorno signor Paolini, buongiorno a lei. Come va? Bene. Allora a Matera che tempo fa oggi? Oggi è l'ennesima giornata calda, torrida, sfioriamo i 40 gradi. Bene, state tranquilli, ok? Sì, senta, bene. Abbondanza, io volevo parlare, lei è proprietario del ristorante Le Lucanerie, che è un po' la tradizione della Basilicata. Però con lei voglio parlare un po' di prodotti, poi torneremo con un secondo giro dalla cuoca della sua trattoria. Abbiamo parlato per ora di fagioli, abbiamo parlato di formaggi. Ci parla del peperone di Senise? Sì, il peperone di Senise è un prodotto IGP lucano, dove insomma nella nostra cucina è presente un po' in tutte le nostre pietanze, a volte forse si esagera, però quella è la voglia nostra di proporlo sempre in continuo sulla nostra tavola. Si presta molto sia per quanto riguarda alcuni primi, negli antipasti. Il peperone è un peperone che noi chiamiamo peperone crusco, perché è croccante, e quindi è un peperone dove una particolarità è di essere sempre, dopo che viene fritto, è dolcissimo ed è praticamente molto croccante, sembra quasi di mangiare una patatina fritta, ecco, questo è il senso del... Infatti qualcuno resta un po' a prima vista, dice ma è piccante, invece il peperone è dolce ed è un peperone buonissimo. Bene, Francesco rimanga con noi perché è un importante chef che oggi è un globetrotter della cucina. Alla vista di questo peperone e alla vista di un altro prodotto che ora ci racconterà lui non è lucano, però si è inventato addirittura un dessert che quando il suo locale era aperto è stato uno dei dessert più apprezzati. Buongiorno Fulvio Pierangelini. Buongiorno a tutti voi. Fulvio, peperone di Senise e fagioli, tu ti sei inventato un dolce veramente interessante, ce lo che vuoi raccontare? Serata. Sì, era una bella serata e tu rientravi da queste terre meravigliose e mi dici dovresti fare qualcosa, dovresti fare una zuppa, inventati, già che hai fatto la tua passatina. E io ti ho chiamato un giorno dopo e ti ho detto bellissimi, ho fatto un dolce meraviglioso con i fagioli di Sarconi e i peperoni di Senise, è stato un dessert magico della mia prima storia del mio gambero rosso, era buonissimo e la gente rimaneva un po' immediatamente imbarazzata, poi lo adorava perché era pieno di affetto per questa terra e pieno di storia, pieno di cultura. Quindi erano dei raviolini di fagioli, dei raviolini di peperoni e poi una piccola crema inglese profumata a questa polvere di peperone meravigliosa lucana. Bene, io l'ho mangiato e posso dire me lo ricordo benissimo. Abbondanza, ha sentito cosa si può anche inventare? Questa è una cosa che ci riempie d'orgoglio, uno chef di fama mondiale come il signor Pierangelini ha preparato insomma una sua pietanza con i nostri prodotti, ci riempie veramente d'orgoglio e ci dà luce al nostro territorio che è piccolo ma è pieno di bontà, e noi dobbiamo ringraziare soprattutto lei signor Paolini che insomma ci dà la possibilità di essere presente. Beh, sul territorio nazionale. Senta, ci riempie di orgoglio. Senta Francesco, lei è un grande cercatore di prodotti della sua terra. Ne abbiamo citati tanti, il pane, i peperoni, i fagioli, la pezzente. C'è qualche cos'altro da andare a scoprire? Beh, guarda, non ultimo, infatti più di qualcuno resta un po' sorpreso dal fatto che noi abbiamo il più grosso pistacchietto d'Europa presente nella collina materana tra Stigliano e Gorgoglione, nel fonte del Valle Sauro, che praticamente sono 5 ettari di pistacchi, è il più grosso impianto che c'è in Europa, ed entrerà in produzione un altro pistacchietto di 7 ettari, quindi questa è una novità per alcuni versi, perché molta gente insomma si abbina il pistacchio a Bronte, in quanto invece noi anche in Basilicata, oltre alla, a tanti altri prodotti già conosciuti, abbiamo il pistacchio che sta veramente salendo quota per quanto riguarda tutti, sotto tutti i punti di vista dello stesso frutto, un frutto buonissimo, veramente, veramente buono. Ecco. Bene, c'è un radioascoltatore molto così che conosce molto bene la Lucania, ma conosce molto bene anche la gastronomia, ed è Cino Tortorella. Buongiorno Cino. Buongiorno Davide, come stai? Bene, grazie, bene. Dici, raccontaci, perché tu sei lucano di origine. Mi state parlando da mezz'ora della Basilicata e dimenticate il posto più bello della Basilicata. Non avete ancora nominato la terra dei miei genitori. Io sono nato a Ventimiglia, ma il mio cuore è rimasto laggiù. Ogni tanto andavo a trovare i miei nonni. E sto parlando della perla della Basilicata, che si chiama? Ah, non lo so, dicelo tu. Dicelo tu. Vinci 10 zecchini d'oro. Bene. Il nome. Bene, bene. Sto parlando di Maratea. Ah, beh, certo. Sì, ma piano piano abbiamo ancora mezz'ora, quindi ci saranno anche tanti altri ospiti che ci parleranno della terra. Ce n'è uno ora che mi ricorda la salsiccia di Palazzo San Gervasio e con i finocchietti selvatici. Francesco, è un buon prodotto questo? Ottimo, ottimo prodotto, la salsiccia di Palazzo San Gervasio è veramente buona. Bene, allora buona. Francesco, vicino a lei ci sarà Enza Leone, che è la cuoca delle Lucanerie. Sì. Ce la può passare, perché volevo da lei una brevissima ricetta. Io vi ringrazio tantissimo. Bene. E buona giornata. Grazie. Grazie, per Paolino. Buongiorno, grazie. Enza. Buongiorno Enza. Enza, pronto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ci dà una ricetta velocissima? E come no, ho preparato dei cavatelli con passata di puntarelle, pezzente di gorgoglione, peperone crusco sbriciolate, scaglie di caciocavallo podolico. Cominciamo un po' sta ricetta, così i nostri radioascoltatori gli diciamo anche un po' allora, come se... Allora, do prima le dosi? No, le dosi no. Allora, il procedimento? Sì. Allora, si lessano delle puntarelle oppure delle cicorie campestri, si passano al setaccio, si fa fette del pezzente stagionato, si soffrigge in un po' d'olio. Poi si mescolano i cavatelli con questa passata di puntarelle e pezzente, si sbriciola un po' di peperone crusco dentro il tutto e si serve con scaglie di caciocavallo podolico. Bene, grazie a Enza Leone, le Lucanerie. Fulvio, tu sì. Hai qualche altro prodotto che hai utilizzato della Basilicata? Io purtroppo non sono mai stato in Basilicata, è un cruccio che ho immenso. E spero di poter andare il più presto, magari mi darai qualche indirizzo. Ti darò anche qualche prodotto. Adoro l'idea del pistacchio, perché non, anche in Sicilia, io sai che in questo momento lavoro in Sicilia, qui a Verdura, ma ho un po' una mia piccola battaglia per il pistacchio e i miei pistacchi li vado a prendere, me li danno in bustine carbonare, raffadali, e allora... se c'è un pistacchio buono è una scusa ottima per andare in Lucania. Per il resto adoro la terra, adoro questa campagna, adoro queste verdure che ancora meravigliose del nostro sud, e in particolare le cicorie, le fave, le cicorie sono pugliesi, ma sono patrimonio di tutto il sud. Spero presto di avere un nuovo stimolo per fare un piatto bene. Altrettanto bello. Grazie Fulvio e a presto, grazie. Grazie Davide, grazie a tutti. Grazie anche a Francesco Abbondanza. Cino, sì. Tu c'è qualche prodotto in particolare che ami della terra? Io avevo la nonna che a Maratea aveva una trattoria, per cui quando andavamo in vacanza giù, per me quei cibi mi sono rimasti davvero nell'anima, i fusilli che faceva mia nonna. Pensa che allora, e siamo negli anni 30, io ero un ragazzino, e arrivava la neve dal Monte Pollino, la portavano su un carro trainato da cavalli con la quale facevano i gelati, mettevano eh sì, ci sono ancora questi posti che sono rimasti dove si metteva la neve, si possono ancora vedere. Grazie Cino della tua testimonianza, a presto. Sicurati. Ciao, Davide, ciao, grazie. Sentiamo... sto andando sto andando a trovare il tuo amico a Neve. Ah, Tonino, benissimo, benissimo. Buon pranzo. Sentiamo Franco dalla provincia di Matera. Buongiorno Franco. Buongiorno a lei, complimenti per il programma, veramente interessante. Prego. Noi chiamiamo dalla provincia di Matera, siamo sulla costa ionica, abbiamo un beach club, una scuola di vela e un ristorante tutto a livello del mare, dove cuciniamo il pesce che peschiamo la mattina. Sì. Si chiama Cuba Libre e la scuola si chiama Basilicata Vela. Senta Franco, una cosa sì. Volevo chiedere, lei ha parlato di pesce, qual è il pesce diciamo più pescato, quello che rappresenta un po'? A periodi, al momento abbiamo i gamberoni dello Ionio, poi abbiamo un pesce che si chiama Pettinessa, non so se... Sì, sì, ci siamo. Ci siamo, qualche seppiolina e fra un po' inizieranno i tonni, tonnetti. Bene, grazie a Franco della provincia di Matera. Bene, ora abbiamo un altro lucano doc, proprio doc, anzi di OCG, diciamo, ed è il sommelier dell'Osteria della Francescana di Modena, Giuseppe Palmieri. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno Davide, buongiorno agli ascoltatori. Beh, quando si parla della tua terra so che ti emozioni. Sempre, sempre. Allora, io da te vorrei un cost to cost di vino. Ora ne faremo un paio di minuti, poi uno stacco e poi riprenderemo. Cominciamo questo cost to cost. Allora, io intanto vorrei fare una grande promozione per quello che è tutto il territorio. È fuori discussione che bisogna riconoscere il merito a gente come Paternoster, come la stessa Elena Fucci, di stare facendo un'operazione ciclopica, perché la grande qualità va soprattutto comunicata con il prodotto, oltre che con la comunicazione fine a se stessa. Quindi di sicuro grande attenzione a tutti i prodotti, ma mi piacerebbe invece portare l'attenzione su tutti quei giovani e tutte quelle persone che comunque stanno facendo ricerca e stanno facendo degli sforzi, magari stanno provando a fare anche un po' di avanguardia in quella che è la regione più bella del mondo, secondo me, cioè la nostra, la Basilicata. E questi giovani, ci dai qualche, cioè i vitigni, ecco, secondo te quali sono i vitigni? Perché conosciamo tutti l'Aglianico del Vulture, però credo che ci siano anche degli autoctoni interessanti. Ma più che fare un discorso nello specifico, mi piacerebbe invece dare sostegno e dare credibilità a tutte le persone che stanno facendo sperimentazione, cioè quelli che stanno provando a portare in un territorio magari tutte quelle uve che non sono considerate autoctone, ma sì, che potrebbero esserlo. Vorrei fare un esempio a tutti e ricordare a tutti che l'Istituto di Bordeaux, che serve a fare ricerca e a tutelare poi i vini di Bordeaux, costantemente prova ad inserire vitigni che non sono tradizionali, ma che però poi nel tempo lo diventano. Certo. Quindi non voglio citare nessuno o un vitigno in maniera particolare, perché mi piace l'idea di parlare di gruppo. È fondamentale che in maniera gioco di squadra, insomma, sviluppi l'idea di gruppo, perché è una terra straordinaria, ancora vergine, che ha margini di crescita impressionanti. Ecco, rimani con noi Giuseppe, sentiamo Michele da Matera. Buongiorno Michele. Buongiorno a voi. Complimenti per la trasmissione e soprattutto per la possibilità che dà la Basilicata di essere in questo momento alla ribalta sul vostro programma. Volevo sottolineare l'intervento del signore che ha appena parlato. Il signore non vuol far nomi, ma io ricordo la presenza qui di vini spettacolari della cantina, delle cantine del notaio della zona di Rio Nero in Vulture, senza poi dimenticare il pane di Matera. Sì, il pane ne abbiamo già parlato, Michele. Il pane ne abbiamo già parlato, abbiamo parlato quasi di tutti i prodotti. Quindi lei diceva appunto, ha dato una cantina che è molto importante, va benissimo. Non posso dimenticare le orecchiette di Bernalda, gustate nella grotta fresca, scrive un radioascoltatore. Io vorrei ricordare che a Bernalda c'è un insediamento, diciamo, completamente nuovo, mi dicono stupendo, del regista Coppola, che è nato in quel borgo, e mi dicono che sia una cosa veramente da andare a visitare. Ora abbiamo la signora Maria Antonietta Grieco, della famiglia che producono appunto formaggi di Moliterno, il canestrato di Moliterno, ma anche sono organizzatori della sagra del Cece Nero. Buongiorno signora. È intervenuto Giovanni, allora interviene il marito. Bene, allora Giovanni Grieco, ci racconta il Cece Nero. Cos'è questa cosa, il Cece Nero? Pronto? Il Cece Nero è una forma autoctona che abbiamo riscoperto dalla nostra zona, che viene dal mondo ellenico. facete, ed è ottimo da cucina e fare molte degustazioni. Ha delle sostanze organolettiche particolari, sono buoni per i diabetici e per altri tipi di malattia. Dica. Quindi abbiamo questa nuova scoperta in questa terra, ogni tanto appunto ci sono queste scoperte straordinarie. Senta Grieco, ma che piatto si può fare particolare col cece nero? Si possono fare delle lagane con i ceci neri, si possono fare delle insalate di ceci neri, perché questo è un piatto molto gustoso anche freddo e quindi si può usare in tutti i modi. Attualmente stiamo facendo anche delle mousse fredde da gelato che si può gustare anche sotto forma di gelato. Senta, che l'ultima novità che sto facendo. La sagra quando c'è? Quando c'è la sagra? La sagra è a Pomarico il giorno 4 agosto alle ore 17 in poi, la notte inoltrata. Bene. Faremo dei piatti degustativi a tutto gratuito per tutta la gente che arriva. Bene, abbiamo visto che ci sono diverse sagre, quindi il turismo può essere interessato sicuramente, ne abbiamo già citate tre. Sentiamo Nicoletta dalla provincia di Biella, buongiorno Nicoletta. Salve, buongiorno Davide, volevo sapere a proposito della zafferana se qualcuno sa dove si può reperire qua nel nord Italia. La zafferana, abbiamo per la pasta. Abbiamo un esperto dell'ALSIA, che è l'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione nell'Agricoltura, Domenico Cerbino. Signor Cerbino, la zafferana cos'è innanzitutto? Buongiorno a tutti, da noi la zafferana è il peperone di Senise, il peperone crusco di Senise che viene coltivato nell'area del Pomino. Ah, quindi si chiama anche zafferana, zafferana. Sì, non è facile trovare il peperone crusco al nord. No, ma si trova facilmente, sì. Oramai il peperone di Senise è abbastanza diffuso e commercialmente si trova, quindi insomma, comunque la cosa migliore è quella di venire a trovare sul Pomino. Bene, esattamente, perfettamente ragione. Senta, abbiamo parlato di queste grandi scoperte, il cece nero, abbiamo sentito ora appunto, il peperone di Senise ormai è completamente noto, ma io con lei vorrei parlare di due prodotti che io a suo tempo credo di aver scritto 7-8 anni fa, però ora mi dicono che sono molto sviluppati. Uno è la melanzana rossa. Sì, la melanzana rossa di Rotonda Bot, che nel frattempo ha ottenuto questo riconoscimento. Naturalmente è un ortaggio particolare, non solo per la sua forma rotonda, insomma per il suo colore, anche per il suo sapore, che è completamente diverso, diciamo. Sì, diciamo ha un sapore completamente diverso rispetto alla melanzana comune, perché c'ha questo sapore sprigno piccante con un retrogusto molto gradevole, che la rende unica, insomma, come tipologia, come prodotto orticolo. Mi sembra che ci sia un altro prodotto che sta così, per così dire, emergendo. Sì, accanto alla melanzana teniamo i fagioli bianchi di Rotonda DOP, che hanno ottenuto recentemente, diciamo, anche questo riconoscimento dalla DOP. È un fagiolo particolare perché è rampicante. I due ecotipi che vengono coltivati maggiormente e che sono riconosciuti dalla DOP sono il poverello tondino bianco e il fagiolo bianco. Questi due fagioli hanno una particolarità diciamo interessante, non solo in termini di proteine vegetali, perché dovete pensare che il disciplinare prevede non meno di il 24% di proteine la sostanza secca. In realtà superiamo abbondantemente questa percentuale. L'anno scorso ci siamo attestati intorno al 27-28% di proteine vegetali sulla sostanza secca. Poi l'altra particolarità è che ha una pellicola molto sottile, si cuoce facilmente, insomma diventa una crema. Bisogna solo mangiare questi fagioli. Diventate la terra dei fagioli, mi sembra di capire, perché sì, noi nel Pollino teniamo questi due ecotipi, poi c'è un altro riconoscimento in Basilicata come i fagioli IGP di Sarconi. Sì, ne abbiamo già parlato. Siamo di quello, un po' la regione leader un po' su queste cose. E quindi insomma possiamo vantare questi prodotti eccezionali. Noi facciamo il bianco, che sono i fagioli, e la rossa, che è la melanzana, e non a caso la sagra che organizziamo si chiama il Bianco la Rossa, quindi avete giocato su questo, sì, sui due colori, certo. Due colori. Manca un terzo che potremmo fare la bandiera con un colore verde. Bene, vediamo un po', rimanga con noi, sentiamo Michele da Bergamo, un radioascoltatore. Buongiorno Michele. Buongiorno, io segnalo tra le eccellenze della Lucania una farina, la Carosello, che fa un mugnaio, il signor Arleo, di questo nuovo Sant'Andrea, ed è una vecchissima, un grano antichissimo che lui ha ripreso e che coltiva, io credo, sicuramente sul Pollino, in un appezzamento di terreno assolutamente limitato, e anche questo ne fa il pregio. Io me lo faccio arrivare regolarmente a Bergamo, perché mia moglie usa il lievito naturale delle sue simili che ha 22 anni per fare il pane. Grazie. E la pasta. Grazie Michele da Bergamo. Salvatore da Roma, buongiorno. Buongiorno, da Roma ma Lucano di Moliterno. Prego, veloce allora, perché ho pochi secondi. Ok, io volevo soltanto segnalare un negozio di prodotti tipici lucani a Roma. Si chiama Lucaneria, www.lucaneria.it, nel quale potete trovare tutti i prodotti lucani di cui avete parlato. E in particolar modo mi faccio fare un po' di promozione del mio formaggio, il canestrato di Moliterno. Non so. Bene, guardi che abbiamo con noi il signor Grieco, che è produttore del canestrato di Moliterno, vero signor Grieco? Certo, certo. Ecco, allora, la stagionatura migliore per mangiare il canestrato di Moliterno? Temperatura migliore di 8 mesi, quindi parliamo di un canestrato primitivo che viene curato nelle grotte di Moliterno, però viene prodotto nell'area del Metapontino e viene fatto stagionare dei fondici di Moliterno. Bene, io ringrazio Grieco e Cerbino per essere intervenuti, ma ringrazio tutti, anche i radioascoltatori che continuano a scrivere degli sms ricordandoci i prodotti. Credo che abbiamo fatto un giro esauriente, ma sicuramente in poco tempo non si può girare la Basilicata cost to cost, però io la consiglio e la continuo a consigliare. Non c'è nessun ente turismo che ha sponsorizzato questa trasmissione né altro, è stata completamente spontanea proprio per l'interesse e l'affetto che ho verso questo territorio così bello anche dal punto di vista paesaggistico. Quindi chi volesse riascoltare questa trasmissione lo può fare domenica domani alle 18 e ogni giorno mi può ascoltare con la pillola alle 11.05 e alle 23.05 e sempre domani alle 11.15 con il riposo del guerriero. Buon weekend, magari in Basilicata, dal vostro Davide Paolini.